ascolta la voce di chi ha fede in te. Oh mio Dio, si spezza nel cuore la furia di un mare d'amore. Perché se n'è andata via da me, lasciandomi solo a piangere col mio dolore. Mio Dio, nascosta in una nuvola, l'ho vista che fuggiva via da me. Ascoltami, nel buio senza sole me ne andrò, resterò, riderò, ne spero, ma fa che mi ritrovi. Per mamma mia, oh mio Dio, senza sole.